Ma il ritorno verbale è una cosa, il ritorno sostanziale sarebbe un'altra, sarebbe la tragedia per il mondo. Se noi tornassimo alla guerra fredda, torneremmo indietro nella storia ad un momento in cui eravamo davvero tutti molto meno sicuri e certamente quei terroristi di cui oggi discutiamo brinderebbero con lo champagne, se ce l'hanno, sarebbero molto felici di un'Europa più debole, di un'America più debole per il contrasto con la Federazione Russa, con un nuovo blocco di influenza russa. Ecco perché non ci possiamo dividere, ecco perché la Federazione Russa va richiamata al rispetto dei doveri internazionali, ma va ricondotta o mantenuta meglio in una collaborazione per la sicurezza. La sicurezza riguarda noi e loro. L'Afghanistan non è un problema italiano o americano, è un problema globale. La crisi che ha portato l'Iran ad accrescere le potenzialità nucleari è un problema per la Russia, ma lo è anche per noi. Sono tutti dossier per i quali dividerci diventerebbe devastante perché saremmo tutti più deboli. Però Mosca, pur iniziando il ritiro da Ossetia e Abkhazia, lascerà uomini, basi e ha anche detto non vogliamo osservatori. Secondo lei è un segnale conciliante all'Unione Europea? Ma noi lo sapevamo, non possiamo nasconderci dietro un dito. Adesso qualcuno scopre che nell'Ossetia del Sud non ci possono andare forze di polizia occidentali. Questo si sapeva. Noi dobbiamo ottenere il mantenimento degli osservatori dell'OSCE in Ossetia del Sud, dobbiamo confermare, ma lo abbiamo già confermato, che in Abkhazia rimarrà la missione di osservatori ONU, quindi la situazione è molto semplice, in Abkhazia gli osservatori internazionali ci sono e resteranno, in Ossetia del Sud gli osservatori internazionali dell'OSCE ci sono e resteranno. La missione di polizia europea, secondo l'accordo siglato l'altro ieri a Mosca, si occuperanno della zona di confine, cioè proprio la zona dove il conflitto è nato. Saranno 200 uomini, è ovvio che 200 uomini non possono pattugliare, non potrebbero nemmeno farlo, il territorio di due grandi regioni secessioniste come l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud, quindi non pensiamo di cambiare sempre i punti di partenza. C'è un accordo firmato da Sarkozy che è un buon accordo secondo il punto di vista europeo. Dobbiamo applicarlo, abbiamo dei tempi certi, 1 ottobre per applicarlo, 10 ottobre per il completo ritiro di tutte le truppe russe. Quelli sono i termini che abbiamo concordato e l'Europa è dietro Sarkozy a sostenerlo.